fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Le 2.52 del mattino, Resto Radio Convento, la notte di Halloween ovviamente, mercoledì 31 ottobre, ma Resto Radio Convento non solo, anche un po' c'è posta per te in questo momento, perché dovete sapere che il nostro locale accoglie tante persone, accoglie tante zone d'Italia, geografiche d'Italia, ma è incredibile come sia il secondo gruppo di Rovereto che viene a trovarci, e la cosa più incredibile è Maria De Filippi, te l'ho fatta, non si conoscono tra loro, è incredibile, è incredibile. Qualcuno sì, non si conoscono tra loro, non si sono mai visti, è incredibile, e sono addirittura scoppiati degli amori un gruppo con l'altro, cioè delle cose fantastiche, fantasmagoriche. Uno di voi, questo ragazzo che la vuole conquistare, il cosiddetto principe azzurro, perché si è vestito da principe azzurro, ha puntato a Sabrina. Che è a Sabrina? Lei, hai puntato lei? Guarda che devi passare sul mio cadavere prima, hai capito, zio? Stai tranquillo e porta un cavallo bianco prima di tutto. Senza cavallo bianco la Sabrina non la guardi neanche. Allora, tutto vero che venite da Rovereto, tutto vero quello che abbiamo detto fin adesso. Vai, giro di presentazioni così vi conosciamo un po'. Chi vuol partire? Buonasera, sono Maestro Miyagi e sono qui al convento. Bello, bello. Per celebrare questa festa di Halloween. Tra l'altro dovete sapere che non solo nella voce ma anche nell'estetica, nel portamento, proprio vestito da Maestro Miyagi, sta lavorando da mesi proprio a diventare anche fisicamente come lui. Sì, dai, sono qui in divisa, in kimono, bravo, cintura nera, quinto dan, e sono qui anche per dare qualche lezione. E infatti guarda, volevo arrivare proprio lì, ti do questa responsabilità ma so che sei in grado di sostenerla. Mandaci un messaggio positivo, insomma, dacci un messaggio positivo. Uno dei tuoi insegnamenti chiave. Che non sia dipingere staccionate, perché ci si è rotti le palle dipingere staccionate, insomma. Cambiamo anche. Allora, non litigate mai, non lottate, ma fate l'amore e voletevi bene. Bello, bello, applauso. Madonna! Applauso, ci vuole momento toccante, bello, che anche il Miyagi mostri umanità e non solo rigore, disciplina e tutto il resto. Poi vai, avanti, prossimi. Non so, tocca a me. Occhio. Beh, perché arrivare dopo il Miyagi è dura, eh? Sì, addirittura. No, sei tranquillo? Vai, allora, tranquillo. Vai. Così. Vai, tranquillo. Io volevo dirmi... cioè, non so. Mi chiamo Mirko, sono qua con le più gnocche di Rovereto. Bravo! Applauso! Bravo! Fai benissimo a portartele nel tuo campo, bravo. Esatto. E niente, volevo salutare tutti e dire buona serata a tutti. Perfetto, quindi lui ha usato questi secondi solo per provarci con tutte e sperare che qualcuna, esatto, che qualcuna accalappiasse al percentuale tra 100. Bravo, no, ma è giusto. Poi, vai, finiamo il giro con gli uomini a questo punto, anche se dovremmo cominciare dalle donne, a questo punto siamo partiti così. No, ma lui è timido. Vabbè, ma solo un saluto, nome e numero. Ciao a tutti. Parla. Ciao a tutti, mi chiamo Luca. Numero di scarpe? 42. Perfetto, vedi, sono informazioni che contano, La taglia maggiore delle donne. Brava, giusto. Più o meno siamo lì. Vai, ok, adesso giro femminile. Ciao a tutti, mi chiamo Ilaria e è la decima volta che vengo al convento. Brava Ilaria. Grazie per aver condiviso e questa cosa volta con noi. Questa volta è sana e non è ubriaca. Grazie per aver condiviso questa cosa con noi. Bello, sembra proprio un gruppo d'ascolto. E poi lei? Io sono Daniela, sono un'allieva del maestro mio. Bene. E porto il 38 di scarpe. Bello, bene. Mi piace che stiate capendo l'essenza dei messaggi da dare e quanto conti dire le cose giuste, ecco, dire le cose giuste. Come mai allieva del maestro Miyagi? Cioè, nel senso... Perché mi sta insegnando la pace interiore. Bello. E l'amore nel mondo. E a che punto sei? Sono un buon punto. Buon punto. Inizi già a sollevarti da terra, esatto, o non ancora? Sì. Sì, cominciato? Bello. Sono già mezzo metro. Mezzo metro, buono. Scusi, voglio ora vederlo al maestro, a che punto è? Beh, però il punto di vista dell'allievo è importante. Poi il maestro tende sempre a sminuire, capito? Perché deve sempre ambire più avanti, no? A puntare più in alto. Bello, vuol parlare anche il maestro a questo punto, visto che è stato chiamato in causa? Sì, sta facendo grossi progressi la ragazza. Però devi avere costanza e disciplina, perché senza queste due abilità non si va da nessuna parte. Vedi cosa ti ho detto? Lei è positivissima, contentissima, e lui l'ha già riportata sulla retta via. Ha detto sì, sei arrivata qui, ma guarda che adesso bisogna arrivare qui. Cioè il cammino non è mai finito. Ok, vai, la velina bionda. Ciao a tutti, sono Alessandra, io sono una delle gnocche del gruppo. Brava, è tua. Questa, evidentemente. Questa è l'unica che ha rimarcato il tuo messaggio, questo è un chiaro segnale. Tanta roba. È un chiaro segnale che te la puoi portare a casa. E poi avrei anche un'altra cosa da dire. Se perché ce l'avessi. Non vorrei mai mettermi allo stesso livello del maestro, però vorrei ricordare che noi facemmo allenamento insieme all'epoca. Quindi. Attenzione. È aperta la sfida. Infatti non indaghiamo sull'epoca, perché poi potrebbero saltare fuori cose particolari. Poi sarebbe la sfida, chi è la leva migliore, che ha imparato meglio. Ma non piace mettere zizzania tra allievi. Non è la serata. Esatto, non è la serata. Bisogna festeggiare. No, anche perché poverina ha fatto tutto sto casino per arrivare alla pace interiore. Se poi arriva a dire che tu sei meglio di lei, brom, mi crolla tutto. Mi crolla tutto il castello. Vai, Martin Scorsese. Ah, io? Che sta facendo la regia dinamica da... Beh, ciao, io sono Rachele. Uh-huh. E beh, che volete che vi dica? Mi trovo in questa banda di matti e... Mi viva trovo bene. Viva la banda bene. Di matti, proprio. Viva la banda di matti. A volte è, un... no? È una buona condizione stare in una banda di matti, no? Vero? Sì. Non è la normalità. Piuttosto della normalità che annoia, è meglio così. È meglio Assolutamente. Ci sto. C'è posto? Non troppo. Magari volevi aggiungere qualcosa? Vieni, la banda, c'è la mia banda suona il rock. Bella. Passo la parola. Vai, la più desiderata del gruppo. Ciao, perché ha avuto sette pretendenti. Ha avuto sette pretendenti nell'arco di due minuti. Ci sono ancora lì che guardano. Ah, bene. Se ne sono andati, perché lei li ha proprio liquidati con un gesto della mano eloquente del tipo così. E si sono scappati tutti. Io sono Sabrina, faccio anche parte della banda, un po' matta, però dai. Ci divertiamo. Ci stai dentro come lei? Sì. E no, volevo dire, che cos'è la normalità, che qua si dice, insomma, essere normali, ma alla fine magari siamo noi normali e gli altri no? Chi può bello. Dirlo? Che filosofo. Guarda, bello. Brava! A queste ore. Bello. Due ore fa avrei anche avuto una risposta, ma meglio non intrufolarsi in questi discorsi alle 3 del mattino, perché si potrebbe arrivare a conclusioni non affrettate. Ma è proprio a queste ore che viene fuori l'essenza. Dici tu cos'è la normalità a questo punto? Ah, non so chi sono io per poterlo dire. Non so, la tua opinione, tu sei una che può avere un'opinione. Ma guarda, normalità... Bello che risponda con le mani sui fianchi proprio, no? Basta, adesso montiamo un cantiere qui vicino, tanto per fartelo guardare. Ma no, mi fai sentire vecchia così, sono io. No, ma guarda che adesso li pagano anche, eh. È vero. Oltre alla pensione, li chiamano controllori, gli danno il giubbettino e l'integrazione alla pensione per controllare i cantieri. E c'è una percentuale di... È diminuita veramente la percentuale di problemi e di danni nei cantieri da quando ci sono i nonnini che controllano. Perfetto, allora viva i nonni! No, è fantastico. Viva i nonni! Sta diventando una cosa tenerissima. Però. La normalità. Lei non si è presentata. No, aspetta, io voglio. Siete voi il focus di questi minuti. Voglio sapere il tuo parere sulla normalità, visto che hai tirato fuori questo concetto. Non guardare me. Sei fregata con le tue mani adesso. Posso svelarlo. Insomma, dovete arrivarci ognuno. Perché non esiste la normalità. Vai, Rachele, allora vai tu. Ah, te l'ho già detta. Sì, ma non vuoi sviluppare. Per ognuno. Lei, Rachele la chiamano sentenza. Perché lei bravo. Cioè lei butta il sasso, colpa sua. E poi No. Butta il sasso e poi ritrae subito la mano, la mette. No, non esiste la normalità, ogni giorno è diverso. Bene, ok, persone. E siamo... anche le persone diverse si comportano tutti in modo diverso, quindi non c'è mai... E siamo solo normale. Dei piccoli punti all'interno dell'universo che fa anche rima, no? Diceva anche Tiziano Ferro, probabilmente in una qualche canzone, è un tema da Tiziano Ferro. Almeno noi siamo nell'universo, dai, come... Uniferro. Perfetto, perfetto, dai. Direi che dopo... Perché siamo tutti degli unicorni. Ci voleva, ci voleva, ci voleva. E tutto il giorno un passo avanti e un giro intorno. Ci vedremo tutti quanti da unicorno. Perfetto. Beh, ma cosa devi fare? Ti entra qui e non ti esce più. Tanto è una grande... Si è anche scoperto recentemente l'autore di tutto questo e che ne è... Sei tu? No, io magari non sarei qui. Insomma, sarei alle Maldive, alle Mauritius a bivaccare. No, anche certo, perché insomma, si è scoperto in un mondo... Vabbè, insomma. Altre cose. E va bene, mi piace chiudere con questa massima filosofica, a meno che qualcuno voglia salutare di voi, dire qualcosa di che sente di dire, che ha bisogno di dire. Se no, chiudiamo con la massima filosofica della normalità, che va più che bene. Timido non ha parlato. Timidone salta fuori. Ah, lui, ma Luca, vedi che Luca è timido. Ma io volevo dire fate l'amore, non fate la guerra. Bello, riprende la filosofia del maestro. Soprattutto la ragazza bionda. È un messaggio, sentivo molto forte verso la ragazza bionda. E io te l'ho servita sul piatto d'argento, volevo cavalcare la tua iniziativa di ricerca. Perfetto. Anche perché ti ricordo che delle altre quattro nessuno ha fatto accenno al tuo complimento. Solo lei. Quindi io. Scusa, i complimenti bisogna accettarli. Vabbè, però. Di 5 sei stata l'unica che l'ha recepito, quindi questo qualcosa vuol dire. Sai che nella mentalità delle donne un'unghia diventa 7 braccia. Pure! Sì. Quindi lavoraci su questa piccola possibilità. Certo. Grazie mille ragazzi, vi auguro una buona notte e vi auguro di rivederci presto. Tutta va bene? Va bene? Alla prossima, buonanotte! Ciao.